fermerò fino a fine mese. Com'è la situazione? Non sto più sentendo nessuno, cosa è successo? Cosa è successo? È successo che nessuno sta più entrando, dunque, allora, vedi, io sono salito adesso qua, ero al computer tutta la sera, ero stanco di stare seduto davanti al computer, cioè a vedere se c'è qualcuno tra questi. Ed eccomi qua. Gappa. Io c'ho anche PMR acceso e c'è un po' di traffico la verità, però qua non sento più nessuno, vabbè, pazienza. Certo, però è che possiamo cambiare la situazione, se la gente non entra, pazienza, vuol dire non è Puglia, che ne so. No, il PMR non lo accendo quasi mai. No, non lo so, forse ci sarà anche la bottiglia mezzo scarica. Adesso vedo, vediamo un po' se c'è qualcuno. Già accesso, però segnale non ce n'è. No, ce l'ho io stasera con Tonino Emanuele, abbiamo fatto due chiacchiere. E io me l'ho portato quello lì perché almeno faccio due chiacchiere anche sui punti, capito? Se no è una noia totale. E c'è un po' di traffico, sento Gio Maria, ieri, insomma, qualcuno già entra, dai. Vabbè, no, non sto usando poco niente qua, dai, diciamo niente. Adesso vedo che non c'è nessuno, comunque. Andavamo a testa, d'altronde, cosa vuoi fare? Ma stamattina sono uscito a fare un po' di spesa, a fare il fornimento, soprattutto di acqua minerale, ho caricato la macchina, così almeno... ce l'abbiamo per almeno minimo ce l'abbiamo per un mese adesso l'acqua, e d'altronde bisogna fare così, tanto stai a comprare un pacco alla volta, se ho fatto un carico non se ne parla più, così non sono uscito sempre. Anch'io faccio così qua, ma anche a Sassari, io qua prendo 5, 6, 7 cartoni alla volta, di quelli da 6, capito? Sassi è la stessa cosa, magari un po' di meno per non tenere la mesa ai piedi, ma qua posso già ce n'è. E poi ogni volta che vado a prendere qualche fesseria ne prendo sempre uno o due cartoni, capito? Se no tocca sempre andando ai torrenti, l'acqua non deve mancare, anche se qua c'è il posto, quindi l'acqua è buonissima, non c'è problema, però noi continuiamo a usare quella in bottiglia, dai. Ho fatto anche le analisi quando era l'anno scorso, due anni fa, era perfetta. Va bene, l'estate siamo, sai che così, poi non c'è il trascinatore in radio e quindi non entra più nessuno. C'è stato il boom, c'è stato in quel periodo che c'era il coronavirus, ma mi sa che quello ritorna e ritornerà anche il boom dell'affollamento in frequenza. Perché se incominciano a chiudere, cosa che succederà prima o poi, perché non è possibile andare avanti così. Non so, d'altronde, hai visto lì alla Maddalena, in quel villaggio che c'è lì, 470 persone, tutti in quarantena. E ne stanno portando tutti quanti a Sassari perché ne hanno trovato già una trentina, ne hanno trovato tutti quanti contagiati e dunque ne hanno portati a Sassari per curarli. Non è possibile, perché questi giovani vantandosi, noi siamo giovani, non prendiamo il coronavirus. A vedere i muri una caterva di queste persone, vede così, mi dice una macchina da gabbo, mi dice a queste ragazze. Aspetta adesso quando apriranno le scuole, un'altra situazione, quella ancora più critica. Quante persone saranno contagiate? Convinti sono loro, ma comunque facciano come credono. Obbediente convinta, caro Giulio, questa è una cosa molto seria che secondo me a spazzarla via ci vuole tanto ma tanto tanto tempo e soprattutto buona volontà da parte nostra, perché se si continua in queste condizioni, io quello che sto vedendo tutti i santi giorni è una cosa allucinante. Io vado lì da Columbano a prendere i miei 7 caffè la mattina e ti dico che tutte le volte che entro, io entro con la mascherina, me la tolgo solo quando prendo il caffè e poi magari mi fermo un attimino fuori 10 minuti a farmi una sigaretta. Tutti quelli che entrano, non ce n'è uno che entra con la mascherina, non ce n'è uno, e si appoggiano al bancone senza mascherina, nuda. gente anziana, gente giovane, gente, capito, in tutte le maniere, di tutti i rimaneri, ogni mattina è la stessa cosa. Sì, è per quello che io infatti non stavo più uscendo, ma cosa riesco a fare? Intanto quando esci devi andare, intanto c'è caldo e meglio stare a casa, al fresco. E poi, vabbè, la mascherina quando esci è giusto che te la devi mettere, perché serve per prevenzione sia per te che per gli altri, soprattutto per rispetto anche nel confronto degli altri. Però a parte quello, cosa vai a fare in giro quando non puoi andare a un bar, non puoi incontrare un amico, non puoi stringergli una mano, non puoi fargli un abbraccio, non puoi fare niente, perché tanto male te ne stai a casa e dici solo in determinate situazioni, proprio quando uno non ne può fare a meno per qualche commissione eccetera. Però no, io sono mesi e mesi ormai che non sono più uscito. Ecco, solo come ad esempio stamattina che ho dovuto fare il rifornimento di acqua, ma diversamente tutti gli altri giorni, magari adesso l'ultima volta che sono uscito esattamente il giorno che sono andato a prendere la pensione, il giorno 1 mi sembra di questo mese stesso, perché oggi ne abbiamo giocato, ne abbiamo 19 mi sembra, praticamente sono uscito 19 giorni fa. Adesso quando esco, quando c'è da ritirare la pensione di nuovo, vado a ritirare la pensione, poi me ne rimango io a casa, è tanto inutile stare in giro, ripeto, non puoi avvicinare un amico, non puoi salutare una persona che conosci, non gli puoi stringere la mano, è rischioso andare a prendere un caffè, non ne vale la pena, se uno se ne sta a casa e va bene lo stesso, figurati, o meglio non va bene, però va bene lo stesso, devi farlo andare bene, ecco pure. Sì, non bisogna farlo andare bene, come hai detto tu, nel senso che io entro al bar, entro con la mascherina, l'abbasso leggermente per prendermi il caffè e poi me la ritiro su. Capito? Cioè se tutti facessero così, non ti avvicini a nessuno, non so, saluti da lontano, non tocchi la mano a nessuno, funzionerebbe molto meglio. Ma qua entrano tutti senza mascherina, tutti uno attaccato all'altro, tutti abbracciati, tutti si salutano, anche stamattina, oh ciao compagno, beh, come stai? Ta-ta. Una bella stretta di mano. Non si può fare, non si può fare. La gente non ha capito che non si può fare. E invece continuano a farlo. E lì il problema, capito? O Giulio. Sì, perché la gente è incosciente, non se ne rende conto della situazione, o meglio lo sa, ma vuole fare il furbo, vuole fare il forte, capito? E intanto diciamo non mi prende, non ti pigliano, continua a fare così e poi vedrai se ti prende, perché non è possibile che si possano utilizzare certi atteggiamenti nella maniera più assoluta. La cosa è molto ma molto preoccupante, oltre che grave, ma è molto preoccupante, per cui bisogna stare alla larga da tutti, soprattutto chi ha una certa età e soprattutto chi ha patologie, sono tutte cose, queste molto ma molto significative agli effetti di un eventuale contagio, per cui è meglio andarsene tranquillamente in tanta sicurezza, per cui non è possibile continuare. E purtroppo è così, noi bisogna anche dire ospedale, adesso stanno affollando di nuovo, che prescrivono una visita, te la rimandano, prima me l'avevano prescritta all'estero perché è stato tutto chiuso, dopo due giorni mi telefonano che non si faceva più perché c'era il rischio di contagio eccetera. Dopo un po' di tempo di nuovo fatta la prenotazione, sarà sempre tramite il CUP, e me la fanno per Nuoro, e infatti dovrò andare a Nuoro a mese entrante. La cosa è un altro mondo, guarda, non è possibile. Oppure dovevo aspettare a ottobre, dovevo aspettare, me l'avrebbero fatta al vero. Ma è un casino, questa Italia è diventato a livello di sanità, a livello di organizzazione, a livello di programmazione. Ma cari dai, questo governo vuole preso e ammazzarsi tutti quanti possibilmente. Chissà, prima o poi che non si giri il popolo, speriamo proprio, guarda. Eia Giulio, è così. Aspetta un attimo che rispondo al telefono, un secondo solo. Ok. Eia Giulio, così è. Purtroppo se non ci mettiamo in testa che questa cosa c'è e bisogna combatterla, a vedere chi torna tutto come te prima, siamo tutti a casa. Sì, ma sicuramente, guarda, sicuramente prima o poi dovrà succedere, se continuiamo così, in questo modo, adesso c'è già praticamente questo focolare. scempio che si è creato qua in Sardegna. Che è stato imbecille di un presidente della regione sarda, ma per quale motivo l'avrà fatto aprire? Ci sono due regioni in Italia che non hanno concesso il diritto di aprire le discoteche, invece che si imbecille l'arbitro. Ma chi se ne frega della discoteca, tu mi dirai, ma sono posti di lavoro, d'accordo, saranno posti di lavoro, ma non credo che sia più importante la salute di tutta la nazione. Qualcosa dell'altro mondo, ragazzi, per carità, che gente che abbiamo amministrandoci, gente incapace, gente che si prende solamente lo stipendio bello sostanzioso tutti i mesi e basta, però come capacità amministrativa non ne hanno nemmeno una piccola impalinatura, ne hanno questa gente, sono tutti quanti uno più ignorante dell'altro, o perlomeno uno più furbi, oppure uno più delinquente dell'altro, perché la politica è delinquente. In generale, per carità. E lì l'errore, noi ci dovevamo blindare, come eravamo all'inizio, blindati, purtroppo non si può venire in Sardegna, nel modo più assoluto, andate da un'altra parte, per quest'anno è andata così, invece è arrivato di Gabugiuio, vabbè, comunque, non mi era mio genere, avesse, ci vorrebbe una partita stasera, gli ho detto sì, vieni. Intanto siamo solo noi, quindi ci guardiamo la partita. Mia figlia esce presto oggi, ci guardiamo questa partita a vedere. E poi venerdì c'è la finale di Europa League, speriamo bene per l'Inter. Un attimo un po' ci va. E nulla, infatti mi ha detto se facevamo qualcosa, vabbè. Stiamo un po' di car, di anima in frizza, di anima bugata, e così chiudiamo in bellezza questa settimana, e poi da lunedì ce ne rientriamo alla base, perché io devo rientrare, e c'ho un po' di lavoro da fare a mio cognato, sennò si ammucchia troppo, guarda, è un casino, io spero che non chiudano di nuovo le attività, perché mia figlia si sta riprendendo adesso, e se chiudono veramente questa volta va a fondo. Beh, indubbiamente è un problema per l'economia, sicuramente un grandissimo problema, ma c'è ragione per essere più prudenti, perché aprire certe attività che non sono assolutamente necessarie per la vita, divertimento, d'accordo, è una cosa più che logica, d'accordo, anche divertimento, però quando non è possibile farlo divertimento, tu non puoi pregiudicare tutto il resto del paese solo perché apri le discoteche o perché fai i concerti in piazza così tutti a ridosso uno dell'altro a contagiarsi, visto e considerata la situazione in cui stiamo vivendo. Non è possibile, è meglio stuzzicare praticamente, o meglio assaggiare che morire di fame. In quel modo lì, se tu apri, cosa succede? Che poi muoiono di fame tutti. Invece, se tu queste cose li trattieni, li blocchi, li fermi, l'economia, anche se con un piccolo, diciamo, o con una piccola difficoltà, però va avanti lo stesso. Invece in questo modo sei costretto a chiudere magari chissà per quanti mesi. Lo stesso discorso vuole fare la scuola. Ma cosa te ne fai della scuola se perdi un anno? Non è la fine del mondo. E gli studenti possono rimanere tutto l'anno a casa, è inutile che tu mi apri le scuole e metterli a rischio tutti questi ragazzi, e non solo ragazzi, anche quelli più cresciuti. Per cui è una cosa questa qui, se ne può fare a me, tu mi dai, ma la scuola è importante, certo che è importante, ma è più importante la vita della nazione. La scuola può aspettare anche se 60 un anno, non è la fine del mondo, ecco, mentre invece la fine del mondo avviene se tu continui a fare contagiare la gente, tutto lì o qua. Tu immaginati adesso, se a settembre aprono le scuole cosa succede? Se a settembre aprono le scuole, tu immaginati cosa succede, perché è inutile che loro mettano i banchi come stanno facendo, la giuvizia, la televisione, i biglietti di misuri, ma questi bambini cosa entrano? A uno si siedono. E i bambini, ok, perché sono, li puoi seguire, e quelli grandi come ti vai? A uno dentro lo accompagni tu, a un uomo di 20 anni, a uno dentro lo accompagni, aiuto. quest'anno non doveva succedere quello che è successo. Ok, si aprivano le attività necessarie, discoteche ancora chiuse, con molta restrizione, i ristoranti, le pizzerie, i bar, perché giustamente sono servizi pubblici che devi dare e quindi è giusto che si lavori, discoteche, per quest'anno niente da fare, assembramenti in piazza, manifestazioni in piazza, niente da fare, ma non avete usato il combinato in continenti. Ah, la prima Rimi a Napoli cosa hanno fatto? Assolutamente non si può fare, però vai tu e spiegaglielo, vai tu e spiegaglielo. Adesso è troppo tardi perché sta nuovamente iniziando, ci sono un sacco di contagiati, ci sono già morti in Italia nuovamente e quindi non si sa come andrà a finire. Dobbiamo aspettare a fine mese, i primi di settembre, e poi arriveranno nuovamente le decisioni dal governo di chiusura, tranquillo che chiudono nuovamente tutto. E infatti è quello che dico io, capita, ma quando vai, anche se certe categorie li devi far chiudere, dagli gli aiuti da parte dello Stato invece a questa gente qua, in modo che possano riprendersi quando sarà il momento per farli sopravvivere. L'aiutino ci vuole, non ci sono dubbi, però non è un modo questo di aiutare le persone, e tu li stai aiutando a morire, le persone le stai aiutando a morire, anzi le stai portando al cimitero le persone, perché se tu concedi certe cose, ad esempio adesso c'è la regola della mascherina dalle 6 e di sera alle 6 del mattino, adesso da oggi dalle 9 alle 14 e tutto il resto della serata. Uno può anche contagiarsi, così facciamo, ma cose assurde, si sentono dei protocolli stupidi, proprio da gente imbecille, ignorante, proprio gente che non ha capito un accidente, non ha capito di questi che ci amministrano. Non è possibile, guarda, nella maniera più assoluta, siamo in mano a dei pellegrini, a dei charlatani e basta, perché sono solo charlatani e soprattutto usurai di umanità, perché non fanno altro che incantare la gente dicendo cose, e tanto nel frattempo uno si prende 20.000 euro al mese di pensione, cioè di stipendio, vergognoso, e la gente non riesce né a curarsi, non riesce a andare avanti, le categorie, quelle importanti, no? Certamente le discoteche, grazie a tutti la discoteca, se quelli 5-6 milioni per dire di persone non hanno lavoro, confronto ad altre 30 milioni di persone che possono lavorare, cassino fucci, falli chiudere, falli, aiutali e basta, non dai di questi permessi così da cretini, perché sono permessi da cretini questi, a farli aprire e fare certi assembramenti, e poi fanno parlare male poi di questi bastardi che arrivano da fuori, grazie. Tu mi obblighi a me di mettermi la mascherina, però permetti a quest'altro bastardi di arrivare tutti i santissimi giorni con le barche, tutti contagiosi, tutti i ragazzi pieni di infetto, ma per carità, non è possibile. Cosa vuoi che ti dica, guarda, c'è da vergognarsi di essere italiani, o meglio di essere europei addirittura. Quindi ne conviene che aveva ragione Salvini quando ha detto che i porti andavano chiusi, che Conte ha mandato la gente a morire, è la pura verità, capito? È la pura verità, i porti andavano chiusi, questa gente non bisogna farla entrare, perché sono infetti, io non sono razzista, però sono, è così, la realtà è quella, hai compreso? Ma poi, cioè, tu dai l'opportunità di fare tutte queste stronzate, però tu prova ad andare negli ospedali o prova ad andare a fare una visita, non c'è nessuno, non c'è nessuno, in un ospedale su 30-40 medici ce ne sono due, gli altri sono tutti a casa, perché? Perché non devono andare a lavorare? Non ho capito, come? Ha dato la possibilità agli altri di uscire, di fare quello che vogliono, negli uffici pubblici non c'è più nessuno, tu andi, no, per la pandemia non c'è il dottore, ah no, per la pandemia non c'è il segretario, per la pandemia non c'è l'impiegato, ma di cosa si muovono i denti? E invece gli altri volevano ricevere i biasi. Appunto, è quello il problema, ragazzi, tu mi fai delle restrizioni assurde, mi fai e poi mi permetti che certe persone circolano così senza nessun contagio, ragazzi. Non lo so io, dice in quarantena di cosa, come si dice, di, ma adesso non mi viene il termine, com'è, insomma in poche parole, che si fida la gente, si deve fidare di questa gente, ma quelli delle ferramonte di rimanere in quarantena, lì se sono contagiati se ne andano in giro perché sono imbecilli e basta, e poi contagiano anche gli altri, ed ecco che siamo sempre da capo, e così arriva, prima o poi arriva la fine del mondo. È vergogna l'essere marca, le dai, abbiamo un governo, o meglio i governi tutti nel mondo, veramente, non solamente in Italia, tutti nel mondo, però in Italia eravamo riusciti grosso modo ad eliminare quasi definitivamente questo fatto del coronavirus, e invece mi hai permesso certe cose, come ad esempio di fare entrare gli stranieri qua fuori, oppure di permettere agli italiani di andare in vacanza fuori. No, se tu non ci vai fuori, innanzitutto perché i soldi italiani li devi tenere qua in Italia, non devi andare all'estero a spenderli per ingrassare le nazioni straniere. Tu, siccome la nazione ha bisogno di tutti noi, compresi anche di tutti i sacrifici anche economici, tu le spese le fai qua in Italia, e le vacanze se le fai in Italia, non ti faccio andare a te in Spagna, in Croazia, in Libania o Macedonia si chiama, o in Francia o in Bolgaria di Lallume, ai Gesuri. Questi bastardi, è il governo che non sa amministrare, vanno schifo, sono vergognosi veramente, guarda. Lo so, sto seguendo, ed è veramente importante cercare di capire e di voler capire, perché molti pensano di sapere ma non sanno nulla. Vabbè, Giulia, ti devo lasciare perché devo dare a mangiare i cani e sistemare il recinto, devo fare pulizia e tutto, perché poi arrivano questi amici e sono ancora indaffarato. Grazie alle due chiacchiere, perdonami se non mi trattengo molto, ma sono già le 7:30, ok? Spero che entri qualcuno a fare due chiacchiere, io lascio tutto acceso e nel frattempo mi metto a fare qualche cosa, ok? Beh, ci aggiorniamo, Giulio, grazie alle due chiacchiere, a presto. Ok, ciao, grazie a te, ci sentiamo alle prossime, dai, attendi pure, perché il cane ha diritto di essere accudito nel modo migliore possibile. Ok, ciao, alle prossime, ciao. Ciao.